Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Mebius si schiera a favore del Movimento 5 Stelle. No, Federico, la politica, lo sai, in Mebius non ci deve entrare, la nostra è una trasmissione di scienza. Selle. Selle delle biciclette. Okay. Sì. Benvenuti a Mebius, adesso i titoli e poi cominciamo con le selle. È nato a Lecce il Movimento 5 Stelle. Avete capito bene, la politica qui non c'entra. Un gruppo di studenti ha deciso di candidarsi per ciclabilizzare la propria città. Torniamo a parlare di Felix Baumgartner e del suo lancio da 39 km di altezza, per rispondere alle domande di alcuni ascoltatori. Il British Museum va in onda sulla BBC con i 100 oggetti che raccontano la storia del mondo, ma questo è diventato anche un libro. Siamo tutti in rete, ma se questo è vero, c'è un popolo che potrebbe cambiare il mondo. Ne parliamo con Ervin Laszlo, uno dei più importanti filosofi viventi. Come la vespa vasaia costruisce il proprio nido depositando argilla strato su strato, così un enorme stampante 3D potrebbe costruire abitazioni economiche a basso impatto ambientale. Dai, che lo sapevi, Chiara. Va bene, Movimento 5 Stelle, però mi piace questa cosa che ovviamente i ragazzi sono sempre creativi, perché l'idea nasce da un istituto, il Galilei Costa di Lecce, e in particolare dalla seconda B, con la quale adesso siamo collegati con due dei rappresentanti, hanno avuto un'idea geniale. Allora, intanto hanno fondato questo movimento che porta avanti una politica ben precisa, che è quella di ciclabilizzare la loro città. Allora, intanto colleghiamoci con Barbara e Gabriele della seconda B. Ciao Barbara. Ciao. Ciao Gabriele. Ciao. Allora Barbara, partiamo da te, raccontaci questo Movimento 5 Stelle, che cosa propone? Noi abbiamo creato questo movimento perché vogliamo rendere Lecce una città a misura di ciclisti, perché pensiamo che sia adatta in quanto non piove mai, comunque non fa mai tanto freddo e ha le caratteristiche adatte proprio per renderla una città in bicicletta. È anche abbastanza piatta Lecce, no? Sì, è proprio perfetta, perché è piazza, non ha dislivelli, queste cose qui. Gabriele, voi avete messo giù dei punti precisi da suggerire alla vostra amministrazione per rendere, come dire, pedonale la vostra città e abolire, come dire, le auto dal centro soprattutto. Sì, noi vorremmo che tutta Lecce, almeno tutta Lecce, giri in bicicletta. Infatti vorremmo già iniziare con alcune scuole, che l'orario di entrata e di uscita, 10 minuti bloccano il traffico e poi quei ragazzi possono uscire tranquillamente con le biciclette e tornare a casa. Spiega un po' meglio, cioè voi volete proporre che ci sia una fascia oraria, cioè all'inizio della scuola, e dove c'è pedonabilità e biciclettabilità e basta, e non auto, una roba così? Per mo' sì, adesso iniziamo così, solamente all'inizio delle lezioni e alla fine. Poi forse vedremo dopo, se andrà bene questo progetto continueremo ad andare anche più avanti, certo. Però voi chiedete che, per esempio, dalle 8 alle 8:20 tutti possano andare in bicicletta, gli studenti, arrivare a scuola tranquillamente. Sì, così. Io un po' mi sono informato, ho visto che tanti quotidiani anche locali hanno ripreso la vostra iniziativa, la vostra notizia. Che riscontri avete avuto invece da coloro che devono invece prendere questa decisione, cioè l'amministrazione? Gabriele. Allora, noi mo abbiamo letto alcuni articoli sul quotidiano e mo anche il professore ci ha spiegato che il sindaco ha voluto sapere un po' di più di questo progetto. Mo vedremo che cosa si farà. Mi è piaciuto, e quindi mo vedremo se vuole anche lui aiutarci a far conoscere questo progetto che stiamo facendo. Barbara, voi siete molto attivi anche nella rete, perché cercate insomma di coinvolgere anche gli altri vostri coetanei della città, no? Sì, infatti abbiamo pubblicizzato il movimento su Facebook, raggiungendo nella nostra pagina abbastanza mi piace, perché comunque la pagina è stata creata molto recentemente e grazie a Facebook, grazie ai social network, siamo riusciti a farci conoscere e quindi ad arrivare anche a vari giornali, eccetera. Come vi è nata l'idea? In pratica noi volevamo appunto rendere Lecce una città in cui si possa andare in bicicletta. Abbiamo stato tanto tempo a decidere il nome. Poi però sfruttando questo nome del movimento esistente, abbiamo deciso di chiamarlo Movimento 5 Stelle, proprio perché creava confusione e quindi per fare notizia. E infatti siete arrivati anche da noi. Ecco, ma non è che si creerà appunto anche una strana confusione per cui potrebbe sembrare che voi siate, come dire, un'ala del Movimento 5 Stelle, che invece è politico? No, anzi, è sembrata una cosa divertente, perché chi ha letto Movimento 5 Stelle ha voluto approfondire e sapere di cosa si trattava. Sì, ha fatto ridere un po' tutto. Senti, ma oltre a questa cosa degli orari, che cosa proponete? Probabilmente lì a Lecce ci sono poco zero posti per posteggiare le biciclette. Esatto, noi abbiamo la corsia preferenziale sia per i filobus sia per i taxi. E noi chiediamo che questa corsia preferenziale sia adatta anche per le biciclette, sia aperta anche ai ciclisti. E poi un'altra cosa è che vicino alle scuole, le scuole primarie e le scuole secondarie, ci siano le fasce orarie in cui gli studenti entrano ed escono dalla scuola, e in queste fasce orarie le macchine non possono entrare e abbiano la precedenza i ciclisti, anche perché per i più piccoli, insomma, i genitori siano più tranquilli. Certo, ma la scuola è con voi, tutta il vostro istituto? Aderisce, sì. Oppure c'è qualcuno che non gli piace questa idea della bicicletta? No, piace a tutti. Ah, ok. Ci sono tanti ragazzi che vengono a scuola in bicicletta, insomma. Non solo ragazzi, anche professori. I vostri compagni che arrivano in bici in effetti riscontrano difficoltà nel traffico? Sì, quello sì, perché comunque non hanno la precedenza i ciclisti, ma gli automobilisti. E poi essendoci tanto traffico... È molto trafficata la mattina. Sì, la mattina all'ora di entrata e di uscita è trafficata, perché ci sono i genitori che accompagnano i figli a scuola, che si recano al lavoro. Va bene, allora ragazzi, in bocca al lupo per il vostro movimento, sì, fateci sapere come va. Va bene, grazie. Grazie Gabriele, grazie Barbara. Ciao, buon lavoro. Ciao. Ciao. Certo che uno si butta giù da 39.000 metri e resta di attualità per mesi, per sempre, veramente pazzesco. Sì, se ne è parlato molto scusate, per la precisione sono 39.045 metri. 45, esatto. Felix Baumgartner, giusto? Sì, austriaco. Austriaco paracadutista e base jumper che si è lanciato per questa ricerca in collaborazione con tutti, la NASA, vabbè, sì, lo sanno tutti. E questo ha scatenato delle reazioni anche nei nostri ascoltatori, ovviamente, che ci possono contattare, lo ricordiamo. Come? Sì. Ricordiamolo. Ok, allora via mail moebius@radio24.it oppure via Facebook Moebius Scienza. Oppure c'è anche Twitter moebius_online. E tra gli ascoltatori che si sono, diciamo, prodigati in domande su Felix, ce n'è anche uno VIP. Sergio da Milano. Alias Rocco Tanica degli Eli e la Storia Tesi. Lì, pure lui. Da spettatore dell'impresa di Felix Baumgartner, cioè la caduta libera da 39 km, mi sono chiesto il motivo della perdita di assetto ad alcuni secondi dall'inizio della caduta libera, cioè quando è cominciato a entrare in pesante rotazione. La domanda è: perché è entrato in rotazione apparentemente incontrollabile e come ha fatto poi a recuperare l'assetto e quali sarebbero state le conseguenze nefaste di questa rotazione? Grazie! Questa è la domanda. Ce ne sono altre che ci sono arrivate, ma poi ci arriviamo, e noi invece siamo andati dal nostro fisico di fiducia. Emiliano Ricci, buonasera, ciao. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao. Se vuoi dire che ha avuto C due punti e quindi non dare una risposta di tipo fisico, si può fare, o no? Possiamo... C puntini, tutto lì. Un po' di fortuna ci vuole sempre in queste avventure, però in realtà, diciamo, ci sono delle tecniche, ovviamente, per poter in fase di caduta libera recuperare la stabilità e non perdersi, ovviamente, non perdere più l'orientamento. Anche se Baumgartner ha dichiarato che nel momento in cui stava era in fase di autorotazione addirittura molto rapida, pensava di star perdendo, come dire, coscienza, perché in quella fase abbiamo proprio una crisi di disorientamento. Infatti si era pensato al peggio. Sì, no, in realtà il paracadutisti esperti come appunto Baumgartner sicuramente sanno che il modo per recuperare la stabilità è quello di riacquisire il più rapidamente possibile quella che si chiama la posizione ad arco, ovvero quella che si vede tipicamente quando vediamo esperienze di paracadutisti. Ci si butta di pancia e le punte dei piedi stanno sostanzialmente all'altezza delle spalle, quindi siamo inarcati, i paracadutisti stanno inarcati, le braccia allargate, le gambe allargate. In questa maniera si riduce al minimo praticamente l'azione di possibili squilibri di momenti di forza, ovvero quelle differenze fra una parte e l'altra del corpo che possono indurre in rotazione. Se si annullano questi momenti di forza, quindi si annullano quelle che i fisici chiamano le coppie di forze, quando si gira sul manubrio per esempio del volante applichiamo una coppia di forze con le due mani, anche con una mano sola in realtà, e quindi lo mettiamo in rotazione. Se si annullano queste, riacquisisce la stabilità, il corpo si ferma. Quindi proprio la sua bravura, la sua capacità l'ha riportato nella posizione di equilibrio. Assolutamente sì. No, se non faceva nessuna manovra si sarebbe schiantato assolutamente al suolo ruotando, oltretutto con il rischio di perdere coscienza. Sì, perché poi il rischio invece dal punto di vista fisiologico è quello. Sì, è come quando prende la nausea quando siamo su una giostra che ruota molto velocemente o lotto volante o cose di questo tipo. Non tutti hanno, come dire, una facile resistenza a situazioni di questo genere, tanto che appunto gli astronauti e i paracadutisti vengono addestrati anche a questo genere di situazioni. E l'altro aspetto molto interessante di questa esperienza è stato appunto il superamento della velocità del suono, che era 1200 km/h. Lui ha raggiunto una velocità massima di 1342 km/h. Questa è una cosa che volevo chiederti. Infatti, scusa, a questo proposito arriva anche una domanda. C'è un'altra domanda, però prima volevo chiedere a lui, ma io ho sempre saputo che un corpo che cade a un certo momento raggiunge una velocità stabile che doveva essere intorno ai 180-190 km/h. Come può essere che questo invece sia andato oltre la velocità? Questo succede perché siamo in una situazione di aria molto rarefatta. È importante buttarsi da una quota molto alta, perché praticamente la velocità del suono viene superata quando ancora la densità dell'aria non è tale da opporre eccessiva una resistenza e creare una stabilità. Esattamente. Dopo però lui è entrato anche in aria più densa a quella velocità lì. La velocità è stata chiaramente rallentata prima dalla resistenza dell'aria, via via scende la densità dell'aria, aumenta, quindi la resistenza dell'aria aumenta di conseguenza e poi ovviamente il momento in cui estrae il paracadute è quello classico. Cambia tutto, diventa è regolare, però chiaramente è importante tuffarsi da una quota molto alta perché l'aria è molto più rarefatta e quindi la resistenza che viene opposta è minima. Sostanzialmente nei primi istanti, quando siamo a 39 km, 38 così, la resistenza dell'aria è così bassa che è praticamente una caduta libera, è come se fosse solo sotto l'effetto della gravità. Ecco, dicendo che ha superato il muro del suono abbiamo risposto alla domanda di Paolo, che ci chiedeva proprio questo. Però c'è un'altra domanda che arriva da Fiorenzo invece, che si chiede: se io vado a una velocità superiore a quella del suono, quando parlo mi sento? E poi aggiunge in un tweet successivo: comunque conosco gente che dice più cazzate più velocemente della luce e si sentono. Ecco, vabbè, questa è la battuta. Questa è un'altra fisica che effettivamente ha sempre un enorme valore, ma quella più classica cosa ci dice, Ricci? Allora, no, intanto un umano non protetto che viaggia alla velocità superiore a quella del suono ovviamente non si dà, tanto che la tuta e il casco erano perfettamente pressurizzati e tenuti a temperatura regolare, anche perché Baumgartner, quando si è tuffato e ha incontrato degli strati atmosferici che erano a temperature tipo meno 60 gradi Celsius, quindi bisognava che fosse tutto assolutamente pressurizzato, quindi quando parlava lui si sentiva. Se uno si trovasse nelle condizioni curiose di parlare viaggiando a velocità più veloce del suono, non si sente. E non potrebbe nemmeno raccontarlo dopo, però. No, praticamente possiamo fare lo stesso parallelo che succede quando ci troviamo di fronte a un fulmine di cui sentiamo poi il tuono, che lo sentiamo molto dopo, proprio perché la velocità della luce, quella del fulmine, è 300.000 km al secondo. Più veloce. Mentre la velocità del suono sul suolo è attorno ai 1.100, 300. Sì, 343 metri al secondo, quindi attorno ai 1.100 km all'ora. Quindi praticamente noi vediamo il fulmine, ma il suono ci arriva molto dopo. Quindi certo. Il fulmine non riesce a sentirsi, cioè arriva molto prima del suono che riesce a produrre. Però insomma, in un jet i piloti si sentono, no? Sì, perché le cabine per fortuna sono pressurizzate. Grazie mille Emiliano, preziosissimo come sempre. Grazie a voi, grazie. Ciao, buon lavoro. Grazie, ciao. Sabato prossimo a Bologna al Paladozzi si terrà un evento importante e singolare. Non è facile descriverlo, in poche parole proviamoci. L'appuntamento è promosso dal Club di Budapest, un'associazione no profit internazionale nata nel 1993 con sedi in 20 paesi, con 8 premi Nobel della pace come membri onorari e da personalità di rilevanza mondiale come il filosofo Edgar Morin, Al Gore, l'etologa degli scimpanzé Jane Goodall, ne abbiamo parlato spesso in trasmissione qui da noi, Arthur C. Clarke, lo scrittore, Peter Gabriel, Zubin Mehta. L'obiettivo di fondo di questa associazione è creare una rete internazionale di persone e darne visibilità, persone che sono profondamente convinte che vi sia la necessità di un cambiamento culturale nel come si governa il mondo e nel come viviamo noi tutti. Il Club di Budapest ha svolto una vasta indagine mettendo insieme tante ricerche sociologiche fatte in più paesi e ne ha ricavato che ad oggi in molti paesi occidentali possiamo pensare che vi sia un 30% circa della popolazione che questo desiderio di un profondo cambiamento l'ha maturato. Il club, anche usando strumenti potenti come la rete, come internet, vuol far crescere e rafforzare questo potenziale. Erwin Laszlo, uno dei maggiori filosofi viventi, studioso da molti anni nel campo dei sistemi complessi e fondatore del Club di Budapest, è qui con noi questa sera. Buonasera, professor Laszlo. Buonasera, buonasera. Le chiedo, lei sostiene che oggi vi sono le condizioni sociali, culturali e anche strumenti potenti come la rete, dicevamo, perché si generi concretamente una nuova e diffusa consapevolezza di un cambiamento, qualcosa che è anche più profondo di una scelta politica. Ci spieghi questa sua tesi? Ma questa è una necessità, non è solamente un'opportunità. C'è senz'altro anche un'opportunità, perché il cambiamento sono sempre più possibile quando sono le instabilità, le non sostenibilità, le crisi, allora il cambiamento siamo più aperti ai cambiamenti. Sì. La necessità è qui, perché veramente questo sistema economico globale, con questa parte finanziaria, con questa parte anche politica e sociale, non è sostenibile come è. Allora la necessità è di trovare la soluzione di rendere più sostenibile, più giusto, equitabile per tutti 7 miliardi di persone che sono sulla Terra oggi. E lei sente, avete i dati per dire che questa convinzione sta diffondendosi? Si vede tanti diversi dati, si vede sempre più di persone che sono consapevoli della loro responsabilità. Sono più aperti a collaborare, chiedono di mettersi in rete, di trovare maniere di collaborare per trovare una strada più normale, più umano, più etico. Certo. E quello si vede sull'internet, quello si vede sulla pubblicazione, tante pubblicazioni alternative, tanto nuova emissione al radio, alla televisione, e tutta la media alternativa che cresce molto forte. Dunque c'è un mutamento culturale senz'altro già in corso oggi. Questo si può illustrare con tante statistiche. Le chiedo un'ultima cosa. Stiamo attraversando una crisi senza precedenti. Molti sostengono che questa crisi può aver generato in tante persone quell'esigenza di cambiamenti profondi, appunto, di cui stiamo parlando. Ritiene che questo sia vero oppure c'è anche un effetto della crisi che può portare allo sviluppo di un più forte individualismo? Come la vede lei questa situazione? La soluzione non sono altri che la cooperazione, non solamente l'individualismo, egocentrismo, la concorrenza e competizione. Ci sono elementi di competitività sempre. La soluzione non sono altri che verso la collaborazione e la cooperazione. Dunque la strada avanti sicuramente dovremo trovare ancora, ma la maniera di trovare, di andare avanti è non contro uno contro l'altro, ma trovare maniera di cooperare, di evolvere, di coevolvere uno con l'altro. Tanti progetti sono oggi già in corso, la nuova città sostenibile, di città di transizione, di cultura, dei creativi culturali, movimento come Wall Street ad esempio, ma sono tanti che mettono sempre in evidenza questa volontà di trovare in strada e di andare insieme avanti. Professor Laso, la ringrazio, dico ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che per avere un quadro completo dell'iniziativa bolognese e di tutti i suoi contorni si può andare al sito www.clubdibudapest, lo pronuncio, clubdibudapest.it. Grazie ancora Ervin Laszlo. Grazie a voi. Come costruiscono i loro grandi nidi le vespe vasaie? Come una stampante, un po' particolare certo. Una stampante potrebbe farlo fra poco tempo se si realizzasse un sogno di cui ora vi parla Chiara Albicocco. Sono qui in compagnia di Massimo Moretti di WASP. WASP possiamo tradurla come sogno. È un sogno che nasce e in realtà prende ispirazione da un insetto, dalla vespa vasaia. Ora Massimo, ti chiederei di raccontarci qual è stata l'ispirazione di questo insetto, come agisce questo insetto in natura e come tu insieme alla tua equipe avete pensato di sfruttare questa idea geniale che Madre Natura ci ha dato. Sì, la vespa ha ispirato questo sogno circa 10 anni fa, mentre stavo progettando una stampante 3D e non sapevo come depositare il materiale, ho trovato una vespetta che faceva la sua casa nella mia macchina, al sole. Entrava e stava facendosi la casa. E io sono stato incantato a guardare come funzionava, perché io stavo proprio studiando l'estrusore. Dicevo, come fare a depositare, in questo caso lavoravo con lo stagno, a depositare stagno e dargli una forma. E guardavo come faceva la vespa e prendevo un po' di terra bagnata, la depositava, la batteva con le zampette e lasciava che il sole la facesse seccare. Trovato quel modo di costruire le cose, intelligente. E da lì è nato il sogno. Qual è il sogno di WASP, Massimo? Il sogno è quello di fare una casa per l'uomo utilizzando il modo di costruire della vespa. Quindi utilizzando sempre materiale naturale, quindi possiamo dire argilla, e attraverso proprio l'attività, come hai spiegato tu, della vespa, ma diciamo immaginandola come se fosse un'enorme stampante tridimensionale, depositando strato per strato il materiale, quindi l'argilla, poter realizzare una casa umana. Sì, esattamente. Il modo di costruire della vespa è geniale. Lei ha un consumo bassissimo, semplicemente cambia di forma la materia utilizzando il calore del sole. Noi possiamo farlo uguale, basta una forma di robot, la robotica adesso è sempre più facile, accessibile, che prenda terra, la impasti in maniera adeguata, la corregga se necessita di qualche additivo, ma in piccole percentuali, diciamo un 10-15%, e la depositi in maniera intelligente come un team di esperti ha precedentemente progettato, quindi la disposizione, gli sformi, le dimensioni dei muri saranno adeguatamente studiati. Però una volta fatto quel progetto e una volta fatto quel robot, quella casa sarà replicabile migliaia di volte a costo che tende a zero. Stiamo parlando di poche centinaia di euro, 100 euro, 50 euro, dipende da quanto materiale verrà depositato. Questo ci permetterebbe di risolvere uno dei problemi del mondo. Ecco, da qui appunto quello che dicevamo all'inizio, il sogno, perché oltre ad essere un progetto straordinario dal punto di vista tecnologico, energetico ad impatto zero sarebbe in effetti un grande aiuto per i paesi in via di sviluppo o comunque coloro che hanno il materiale a disposizione, hanno il sole, hanno la terra, l'argilla, ma purtroppo non le risorse per poter costruire. Noi crediamo che un sogno condiviso, se trova altri sognatori, trasformi la realtà in la materia, quindi il sogno diventa materia, scende nella materia. In questo caso un sogno lo stiamo rendendo credibile a livello tecnologico, abbiamo sviluppato sistemi di stampa 3D credibili e trasmettendo questa conoscenza e dimostrando che questo è fattibile si stanno coalizzando energie per cui il sogno diventa sempre più realizzabile. Voi adesso avete costruito delle stampanti tridimensionali, diciamo piccole, anche economiche, che grazie alla vendita di queste possono sostenere il progetto più grande. Giustamente tu dici sempre noi, parli al plurale perché siete un'equipe, tu sei, ti definisci un artigiano, in realtà sei uno sviluppatore, cioè colui che rende concreti dei progetti, delle idee, però hai alle spalle anche un team molto giovane. Sì, è stata una bella esperienza questa di appunto un artigiano, mi piace definirmi artigiano perché lo sono, c'è quello che fa le cose, che è abituato a farle e che si è unito a un gruppo di giovani che sono una risorsa importante che a volte non viene capita dagli artigiani e perché li considerano non facilmente utilizzabili. Non è vero, i giovani hanno delle risorse proprio perché hanno contatti con le nuove tecnologie, perché sanno usarle, sanno comunicarle. Noi abbiamo fatto questo gruppo dove l'artigiano è nel fare quotidiano, quindi trasforma la materia, però si basa sull'energia e la capacità di comunicare questo lavoro, di essere aggiornati con le nuove tecnologie, di fare design, di fare comunicazione, di fare bello. E quindi assieme a un gruppo di studenti dell'ISIA di Faenza, un artigiano che è Centro Sviluppo Progetti, stanno sviluppando un progetto che sarebbe apparentemente impossibile per entrambi gli attori. Però questa unione di queste due energie, senza particolari finanziamenti, sta sviluppando questa cosa che tutti i giorni è più credibile e noi stessi stiamo a guardare quando diventerà realtà. Ecco, per far diventare realtà il sogno, Massimo, di che cosa avresti bisogno? Quanto servirebbe dal punto di vista economico e dal punto di vista di tempo? Il supporto economico potrebbe accorciare i tempi e viceversa. Noi valutiamo che in ogni caso andremo avanti e arriveremo in fondo. Dipende dai finanziamenti che avremo, se i finanziamenti saranno piccoli potrebbe essere necessario anche un paio d'anni. Noi ci piacerebbe arrivare a presentare questo progetto addirittura anche in una sede internazionale, sarebbe bello l'Expo di Milano che è esattamente inerente a questo argomento, perché investendo anche soltanto 100.000 euro in un gruppo di studio di studenti e azienda abituata a fare potrebbero vedere realizzato un qualcosa che potrebbe sembrare una cosa molto più costosa. È necessario veramente poco, ma vero. Ho qui davanti a me un libro intitolato La storia del mondo in 100 oggetti. Pesa, credo, secondo me, più di un chilo. E per parlare di questo libro, e non del tanto del fatto che pesa, ho qui con me Matteo Codignola. Buonasera. Buonasera, buonasera. Che per Adelphi ha curato questo librone. Sì. Pesa più di un chilo perché sono 700 pagine di una bellissima carta con un sacco di illustrazioni bellissime anche queste. Poi dopo vi dirò perché secondo me questo libro si adatta particolarmente per un regalo natalizio. La storia del mondo in 100 oggetti, Matteo, potrebbe rimandare immediatamente negli ascoltatori e ascoltatrici all'idea che qui si parla dell'arco delle frecce e poi dell'aratro e poi arriva il motore a scoppio e la lavatrice, no? I grandi oggetti che hanno, se invece non è affatto tutto ciò, anzi questi oggetti si trovano tutti in un solo museo. In un museo che è il British Museum, non è un museo qualsiasi, l'autore di questo libro è il direttore del British Museum, si chiama Neil McGregor. Questo libro di fatto nasce da un'origine molto singolare che mi fa molto piacere raccontare in radio, perché certo. Nasce dalla radio. Nasce dalla radio. Nasce da un'impresa virtualmente impossibile, cioè descrivere in 100 puntate di un quarto d'ora l'uno 100 oggetti delle collezioni permanenti del British Museum. Allora, voi fate radio, tu fai radio, immagina cosa vuol dire senza immagini descrivere un monile, una coppa, un arazzo in un quarto d'ora. E beh, sono cose, sono una specie di virtuosismo, di miracolo che nasce per qualche ragione misteriosa, soprattutto in Inghilterra, dove la capacità di raccontare nel modo più semplice possibile e al tempo stesso molto complesso, accessibile a tutti, di raccontare soprattutto, è una specie di ricetta di cui solo loro hanno il segreto. C'è il precedente molto illustre televisivo di Simon Sciama, che è un altro, importantissimo intellettuale, così, che ha raccontato la storia d'Inghilterra e poi una parte di storia dell'arte alla televisione. Adesso arriva il mezzo, per meno da me preferito, che è la radio, a compiere un'impresa di cui non si sarebbe forse ritenuto capace. Oh, però Matteo, il problema è che questi 100 oggetti sono stati veramente scelti per raccontare la storia del mondo, la storia della nostra specie, la storia delle nostre nevrosi, delle nostre quotidianità, delle nostre follie. E sono veramente delle grandi storie, ma anche delle grandi favole. È un libro che può anche essere visto quasi come una fiction, come un libro di letteratura. Sì, la cosa molto importante è che appunto non è un... Chi lo sente raccontato in questo momento può pensare a una specie di enciclopedia o di Gara Zantona, con tutto il rispetto e la devozione. Non è un'enciclopedia, è una serie di storie, appunto 100 storie, ognuna delle quali connessa a tutte le altre, perché una cosa molto interessante di McGregor non è soltanto che racconti l'origine di quell'oggetto, dove è stato trovato, che cosa significava a suo tempo, che cosa può significare per noi oggi, ma di tessere una serie di reti fra ogni singolo oggetto e quasi tutti gli altri, che alla fine per l'appunto raccontano una storia. Come in un film, ci sono dei legami sotterranei che poi riemergono e danno il senso di capire perlomeno una versione delle molte possibili della nostra storia. C'è un piatto che è intorno alla Rivoluzione Francese. La Rivoluzione Russa. È un piatto, ad esempio, un piatto della storia molto bella di un piatto. Le ceramiche russe erano una cosa importantissima. Avevano raggiunto un livello di artigianato altissimo prima della rivoluzione, erano le più ricercate in Europa, e la Russia negli anni 20 non abbondava di generi da esportazione, insomma non erano in quel momento neanche in grado di produrre alcunché in realtà. E allora, per fare cassa, diciamo, si sono rivolti a quello che rimaneva in piedi delle strutture precedenti, e sono rivolti in particolare ai fornitori in Inghilterra, di Sua Maestà lo zar di tutte le Russie, che è una importantissima fabbrica di ceramica che riforniva Casa Reale fino a quando Casa Reale esistita, e hanno preso gli stessi impianti, la stessa materiale, la stessa cosa, e l'hanno decorati con motivi molto belli, rivoluzionari. C'è un operaio con una fabbrica, il sole dell'avvenire, tutte queste cose qui. Una cosa molto divertente che sul retro, però in modo da garantire l'acquirente occidentale, rimane il marchio zarista con la fabbrica. E quindi un oggetto che tenersi in mano, e questo è uno dei tanti aspetti divertenti di questo libro, che McGregor è come se li toccasse davanti a noi, cioè li gira, li rigira, perché gli oggetti nascondono le loro pieghe, moltissime storie. Una piccola storia molto importante è quella di questo retro, di questo piatto, che da una parte è una falce martello, ma subito sotto ha ben visibile, perché bisognava fare cassa, insomma, bisognava far convincere i francesi, gli inglesi, i tedeschi che era roba buona. Senti, è il cronometro che era a bordo del Beagle, la nave con cui Darwin fece il grande giro del mondo, al quale dobbiamo una teoria non da poco. Il cronometro, come sappiamo, è stato importantissimo all'inizio dell'Ottocento per calcolare la longitudine, insomma, certo, che in assenza della quale cartografare, esplorare e poi tracciare le cartografie attendibili diventava piuttosto complicato. Adesso la storia è molto lunga e molto complessa, ma la rivoluzione nella navigazione, nella storia dell'esplorazione geografica, viene dal momento in cui strumenti come questo cronometro che McGregor ci fa vedere erano accessibili a qualcuno che non fosse l'ammiragliato, cioè potevano essere su navi anche normali come la Beagle, su cui Charles Darwin si imbarcò per il giro del mondo. Ce n'erano 25 di cronometri sulla Beagle, tanto per non sbagliarsi, uno è questo. E appunto è emozionante vedere lo strumento col quale per le primissime volte si poteva navigare in modo affidabile e descrivere ciò che si vedeva in un modo, insomma, con più certezze, con molta più accuratezza. Un racconto che a me è piaciuto moltissimo, possiamo concludere con questo, è quello della Coppa Warren. Warren è un signore collezionista che a un certo momento l'ha avuta fra le sue proprietà, però la coppa sale ai tempi di Roma ed è una bellissima coppa sulla quale ci sono due scene di incontri hardcore, omosessuali, possiamo hardcore, dire. Sì. Una delle due è anche piuttosto. Come si dice, traducendo oggi dall'inglese, grafica. È un bellissimo manufatto di 2000 anni fa. Questo libro è percorso da alcuni discorsi sul sesso, sul potere, sul denaro. E questo è uno dei primi, degli esempi più vividi, perché è una coppa in cui appunto sono rappresentati accoppiamenti omosessuali, è una coppia da banchetto molto importante, molto di pregio, e l'esplicitezza è un po' sorprendente persino per una civiltà come quella romana, che non aveva le nostre. No, era molto è molto divertente perché racconta, fa vedere come persino in quella società, per rendere tutto quanto più accessibile, lì si fosse impannucciati in abiti greci, in modo da distanziare la storia interessante di questa coppa è che praticamente, proprio per la sua rappresentazione, a un certo momento non la si può far vedere, ma si arriva solo al 1999 per avere una. Sì, perché poi questa coppa si chiama Warren, perché è stata comprata da un collezionista americano e poi da altri musei, ma appunto è di tale immediatezza che in varie circostanze si riteneva più decente tenerla nei fondi, insomma, visibile agli studiosi. Il British la mette in vetrina solo nel 99, insomma, 14 anni perché fa. Perché anche il British, cui dobbiamo tutta la riconoscenza e l'ammirazione possibile, ha i suoi problemucci ogni tanto. Ecco, sì. La storia del mondo in 100 oggetti, sono 100 avventure. Allora, vi dicevo prima, il libro costa un po', noi dobbiamo sempre dire quando i libri costano sui 48 euro, però insomma, diciamo, sotto Natale è un regalo perfetto per chi si interessa di storia, di arte, di cultura in genere, ma anche chi è un grande lettore di romanzi, secondo me, con questo libro si diverte molto. Edito da Adelphi, grazie Matteo Codignola. Grazie a voi. Cosa succede dopo che un'ora è passata? Che le storie da raccontare sono finite? No, è il tempo che è scaduto. Per le altre 1000 storie ci sentiamo sempre qui, fra 7 giorni. Buona settimana a tutti e a tutte.